Radio Tube Social Network. Oh, la seconda ora di RadioTube, siamo tornati in diretta dopo qualche giorno di vacanza. Mi sono presa una bella decina di giorni di vacanza, mi sono riposata, ho proprio preso la rincorsa perché sarà un gennaio intenso, non parliamo di febbraio perché poi si arriverà a Sanremo, insomma succederà di tutto. Nella prima ora abbiamo parlato di premi, a proposito di festival, ci sono stati i Golden Globe, abbiamo parlato di papi, perché è il periodo dei papi in televisione e nelle serie TV, abbiamo parlato degli esclusi da Sanremo, perché la prossima settimana parleremo delle canzoni di Sanremo, perché le ascolteremo in anteprima. E abbiamo anche fatto un merda, perché si dice, non è che sono volgare, che si dice così in teatro, a un amico di Radio 24 che è Nino Formicola. Io sono contentissima di aver parlato della sua Cena dei Cretini e anche un po' del suo modo di fare teatro. Bella questa visione del compagno di palcoscenico che deve essere un po' come il compagno della vacanza in barca. Che dovete proprio andare d'accordo, perché se no si impazzisce. Ma nelle redazioni è un po' così, sì, è un po' anche nelle redazioni. Allora, 349-238-6666, numero per i vostri sms e whatsapp. Ci sono i miei account social, chiocciola Marta Cagnola, su Instagram e su Twitter. Ah, io sono molto contenta del co-conduttore d'eccezione di questa settimana. Io gli dico sempre: quando scendi un sabato da me? Quando scendi un sabato da me? Allora lui, ligio al dovere, mi ha mandato la mail con tutti i sabati, con tutti i suoi turni del sabato. Vice direttore del Sole 24 Ore, quindi persona serissima. Ma oggi gli faremo dire di tutto. Alberto Rioli, ciao. Grazie, Albert, grazie di questa presentazione. Buon pomeriggio. Sei pronto a parlare di qualsiasi cosa? Ma oddio, spero di sì, ma sempre un esame difficile. È un esame difficile. Dopo la maturità arriva la cagnola, diciamo la verità, eccoci qua. Vedi, no, dai, allora cominciamo con i video della settimana, perché non c'è niente da fare, l'informazione passa sempre di più attraverso i video, cioè, lo sappiamo anche, ovviamente noi facciamo la radio e quindi abbiamo proprio un modo diverso di esprimerci, però ad esempio su un sito come il sito del Sole 24 Ore ormai il video è imprescindibile, dà anche un po' forma alla notizia ormai. Beh, assolutamente, è stato molto potenziato, tuttora in fase di ulteriore potenziamento, ci sono degli esperimenti anche di visualizzazione, come dire, 4.0 mi sentirei di dire, nel nuovo sito 24+. Quindi ci scommettiamo moltissimo, è sicuramente una fonte di informazione e di fruizione dell'informazione e della comunicazione da parte di chi ci segue sempre più gettonato, che trova un pubblico sempre più esteso e sempre più interessato. C'è una notizia. Dobbiamo abituarci noi però a modificare il linguaggio, a cambiare la modalità con cui ci esprimiamo. Certo. C'è una notizia gravissima di questi giorni, che è quella degli incendi in Australia, che secondo me è una notizia che ci ha toccato ovviamente anche per le immagini che ci sono arrivate. Questo è un brevissimo frammento di un video veramente meraviglioso che ho trovato su YouTube, un video con tantissime visualizzazioni dalla ABC australiana. It was just skin and bone, this little fella. It was just, yeah, a little tiny little thing. Like thousands of other Australians, these kangaroo joeys are bushfire refugees. Papa. You're going to sleep. It's a disaster what has happened, but the community has come. È un disastro quello che è successo, dice questa signora che ha uno shelter, un rifugio, e praticamente. E sono delle immagini come se questa signora avesse portato a casa sua come dei bimbi da allattare, ma sono dei piccoli canguri. Le immagini dei koala, l'immagine del koala che ferma il ciclista e beve dalla borraccia del ciclista, o che divide la ciotola dell'acqua con il cane, sono delle immagini che subito ci fanno capire la gravità della situazione. Forse se non ci fosse stato questo sarebbe sembrato un mondo lontanissimo. Sì, è vero, ci riporta a sentimenti, come dire, primitivi, di accoglienza, naturali, per così dire, che dimentichiamo, perché poi nella discussione politica fatta tutta di presunto déjà vu, di cattiverie, di arroganze, di cinismo, queste cose qua le perdiamo dall'orizzonte, ma invece quando accadono questo tipo di cose, naturalmente l'elemento dell'empatia ritorna, perché siamo esseri umani per fortuna. Quindi il koala, ragazzi. Il koala poi è un simbolo di bimbi che ci portiamo dietro, sì, insomma, sì, bene o male tutti ce l'abbiamo avuto qualche pupazzo di quel tipo lì, e quindi insomma è evidente che emoziona molto. Ricordo poi sono trasponibili, diventano storie che riguardano anche l'umanità, gli uomini, nel senso che ricordo molto anche il video di quella cavalla che nell'incendio californiano invece è ritornata dentro per salvare la puledra, con tutti i vari proprietari, i vigili del fuoco che tentavano di fermarla perché c'erano le fiamme molto alte, invece no, in barba a ogni divieto è entrata e ha riportato fuori la puledra, però, un gesto di eroismo animale, sentimenti veri, che è evidente, sì, sì. Che concediamoceli ogni tanto. Perché no? Certo, perché abbiamo sempre paura di finire nella retorica, però ogni tanto forse. No, per carità, poi qui c'è uno sconvolgimento epocale che è stato sottovalutato innanzitutto dal premier, ahimè, australiano in questo caso, che riguarda tutti perché sta scomparendo un intero continente che noi favoleggiamo essere l'altra parte del mondo, naturalmente per noi è molto lontano, è molto legato a, come dire, a idee molto esotiche. Tutti ricordiamo uno dei video che gira è il canguretto che abbraccia la ragazzina che l'ha portata via. Insomma, certo. Sono storie che naturalmente ci riportano a un'idea, ripeto, primordiale ma vera, genuina, dove poi il pianeta siamo tutti, e riporta un po' il tema dell'ecologia, così come si sta tentando di declinare in questo scorcio, in questo avvio di decade, diciamo, e che mi fa venire in mente Papa Francesco, insomma, che ha fatto suo questo tema e lo ha proposto tra mille difficoltà e che ancora, naturalmente, deve ancora fare molto per attecchire. Allora, ci sono tanti spunti. Intanto hai detto il cinismo, la cattiveria, e qui per un momento li tiriamo da parte. Il fatto dei sentimenti umani, dell'essere più istintivi, dell'essere più... E poi hai tirato fuori il Papa. Io metterei tutto insieme, perché questa settimana il Papa ha fatto notizia e quel video ha fatto proprio il giro del mondo all'inizio dell'anno, della signora che poi non era cinese, che poi era filippina, che poi boh, che ha effettivamente cercato di trattenere un po' il Papa e lui non si è lasciato sfuggire la possibilità di liberarsi in maniera abbastanza vigorosa, diciamo così. Ovviamente polemiche in rete anche su questo. No, però adesso raga, continuo a far cadere l'acqua, non so cosa voglia dire, oddio, no, ma stavolta era chiusa la bottiglia. Cioè, ma perché dobbiamo litigare su tutto? Ma perché dobbiamo litigare? Cioè, litighiamo sul Papa che... Dai! Beh, perché il Papa che sfilava e stringeva mani in quel momento lì non era il rappresentante di Pietro, né tantomeno di Dio della Chiesa sulla Terra, ma era davvero un uomo fastidito. Che è stato operato all'anca, che ha rischiato di cadere e di farsi parecchio male. Se lui si fa male un femore del Papa con un già operato all'anca, diventa un problema. Sì. Evidentemente ha avuto una reazione perché più sennò che umana. Poi torna all'inizio della nostra puntata, cioè il new Pope, esatto. È un delirio. Ho molto riso con propaganda, perché io non so se tu conosci Fabio Celenza. Fabio Celenza è diventato famoso in questi anni perché fa dei video molto carini in cui fa un lip sync, cioè com'è che si dice quando uno canta in playback? Un playback di alcuni americani, però che sembra che parlino italiano. Ovviamente noi, non potendo farvelo vedere, vi facciamo sentire solo le voci, però a propaganda Fabio Celenza ha spiegato che non era mica la prima volta, perché il Papa ne aveva già combinate. A quei tempi a Buenos Aires ci andava gente, giravano certi ceffi tosti che Papa lascia perdere che menava, Qua abbiamo delle testimonianze. Prego Diego. C'è chi c'è passato prima della malcapitata. Chi ha cominciato? Il Santo Padre. D'estate dopo la preghiera mi pristava nero. E mi sono stupito. Franci, non te lo devi farti una vita bellicosa. Allora, queste sono in realtà le immagini, ci sono Mike Tyson, insomma, è molto molto molto molto molto divertente. Allora, tra poco ti faccio parlare di politica italiana. Sei pronto? Ci provo. Terreno minato, un breve riassunto mentale. Terreno minato, Però io in realtà questa volta voglio essere buona. Non so come mai, voglio essere buona, viabilità e poi ancora con RadioTube. RadioTube Social Network. Allora, ancora insieme con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli, che però, allora, vice direttore del Sole 24 Ore, però ha anche una voce di Radio 24, perché ti sentiamo tutti i giorni in effetto giorno, è vero. Sì, sì, bene, mi fa molto piacere. Eh no, è vero, è vero, è vero. Allora, parliamo un po' di politica. Campagne elettorali, regionali, non violiamo par condicio di sorta, però... In questo periodo ci sono moltissimi video anche su TikTok, perché ormai lui è sbarcato con successo anche su TikTok, ovviamente è di Matteo Salvini. Corriere.it ha fatto una piccola compilation, ne sentiamo un pezzettino. Non so voi, ma io adoro la coppa. Se mi devono condannare alla galera, non mettetemi in carcere. Qua voglio stare 15 anni. Run. Qua. Qua. Pasta e fagioli non l'ho mai vista, senti che profumo. Quanta era? 150 kg. Oh, viva la dieta romagnola! Però sentite il profumo, senti che roba! Non ve li faccio sentire tutti perché si va avanti per quasi 2 minuti con specialità alimentari. A parte il fatto che a questo, cioè, credo di aver capito che in campagna elettorale si rischia di ingrassare notevolmente. Direi di sì, viste le pranzi e le cene, esatto, ufficiali più le visite in Emilia, una inevitabile. Esatto, che... anche perché poi magari un tempo qualcuno poteva declinare, adesso invece tu bisogna fare la story, il TikTok. Cosa ne pensi? Ma insomma, è chiaro che è la modalità che ha scelto Salvini per recuperare un po', diciamo così, il politico dal volto umano, perché lui deve superare quell'idea di essere l'uomo arrogante, il maschio alfa, un eccesso di testosterone che gira, insomma, aggressività, chiudiamo i porti, deve rifarsi un'immagine un pochettino più umana col sorriso, e non a caso lui insiste moltissimo anche nei kit che dà ai suoi sostenitori, ai suoi adepti, sostanzialmente ai candidati. Dice sempre: utilizzate il sorriso, sì, e spiegate che dovete che voi sorridete alle critiche, eccetera. Ed è la tecnica che lui sta usando. Questo giro emiliano nella gastronomia d'eccellenza di quella regione meravigliosa serve a quello, sostanzialmente a modificare la percezione della bestia, la macchina comunicativa social che è stata protagonista quando lui era ministro dell'interno e che adesso non c'è più e costa 500.000 euro meno, diciamo così, nella bolletta finale del Viminale. Non più dolce, deve recuperare, perché non c'è la Nutella, ma una cosa un po' più umana, un po' più ad uso emiliano, appunto tortellini, coppa, prosciutto, parmigiano. Ormai sono anni che stiamo raccontando di questa evoluzione della comunicazione politica. Non c'è niente da fare, se vogliamo mantenere un po' di onestà intellettuale, era il procedimento un po' più casereccio che si faceva sempre alle feste dell'Unità, quando il segretario di partito andava nelle cucine, c'era la foto, poi il giorno dopo certo, di lui che stringeva un po' di mani ai cuochi. C'erano molto social, ma insomma no, sono cambiati i tempi, però il concetto è quello lì. Tante polemiche invece per Alfio Baffa, calabrese, che ha fatto questo video. Io però allora ascoltiamo il video poi vi racconto. Cari amici del gruppo Revenge Porn, vi volevo fare un saluto da Roma dopo la manifestazione di Salvini in Dota per relax dalla mia stanza d'hotel. Anzi, faccio un brindisi con voi. Allora, con sigaro e rum nella vasca da bagno, il candidato calabrese che saluta il gruppo WhatsApp, a me viene da ridere, che hanno chiamato Revenge Porn. Il Revenge Porn è una cosa molto seria, però evidentemente questa era una stupidaggine tra amici. Sì, però se sei candidato devi stare attento a queste robe. Esatto, bisogna stare un po' attento, un po' più di aplomb, per così dire. Dobbiamo imparare che se anche facciamo un video scemo che mandiamo agli amici, soprattutto se sei candidato, ripeto, le modalità con cui ti rapporti con la comunità che ti sta intorno devono necessariamente cambiare, perché hai una pretesa di ruolo pubblico che comporta delle responsabilità, delle modalità di comportamento che non puoi dimenticare. Certo, se poi però ti chiami revenge porn e fumi il sigaro nella vasca, eccetera, rappresenti anche un mondo un po' discutibile, diciamo. Sì, un po' secondo me, allora, io non, credo ci sia stata anche una grossa ingenuità sotto. Sì, è probabile. Probabile, certo. E però ricordiamo, forse l'insegnamento che viene fuori dal punto di vista appunto della comunicazione della rete è: occhio che quello che credi che sia privato e che rimane solo nel tuo gruppo di amici, raramente sì, certo, lo è. Ecco. Mai fu più vera l'idea che il privato è pubblico. È una cosa un po' del secolo scorso, ma ahimè ha trovato una nuova forma di rivitalizzazione, tra l'altro assai concreta, con queste fughe nei social. Quindi i miei video nella vasca da bagno con rum e il sigaro, no, non ce n'è, vi assicuro, soprattutto per il sigaro non esiste. Allora, ma vorrei sfruculiarti su un altro personaggio che ha fatto, del quale ho scovato un video. Non è però nella vasca da bagno, ve lo assicuro. It's pretty dramatic stuff, isn't it? It's a bit of a wow moment, isn't it? I mean, basically, as far as I can tell, I mean, this statement landed in my inbox less than 10 minutes ago. They are resigning from the royal family. It's simple as that. They are stepping back. Allora, what they call ITV inglese, il giornalista dice: ah, qualcosa di drammatico. Sì, lo statement, la dichiarazione mi è arrivata 10 minuti fa nella mia inbox, nella mia posta elettronica. Cioè l'annuncio di Meghan e Harry che fanno un passo indietro nella famiglia reale. Allora, non voglio farti fare l'esperto, no, di reali. No, perché ahimè devo passare, sono un repubblicano convinto e so poco della dinastia inglese. Non sei appassionato di gossip, no, della dinastia inglese, no. Però, allora, in tanti li hanno un po' presi in giro perché hanno detto: ragazzi, vabbè, fate clamore perché avete deciso di lavorare, però, cioè, non è che vanno a fa proprio... Allora, no, sai qual è la cosa divertente davvero? Che dovremmo fare noi cronisti se questa cosa andrà avanti? Vedere se loro, da privati cittadini, utilizzando il marchio attraverso appunto social e quant'altro, alla fine guadagneranno di più che non da reali. Questa secondo è la vera me cosa. Poco, e molto ma probabilmente sicuro. Sarà secondo così. Me poco ma sicuro. Ti faccio una domanda tra il serio e il faceto, tra l'economico e il cazzaro. Ma alla fine i soldi fanno soldi. Sì, la fama fa soldi, diciamo così. La fama intesa appunto come popolarità, così come la si intende adesso con i social e con i like, purtroppo, diciamo la verità. E quindi è la quantità del consenso che crea appunto audience, fama e visibilità che crea il denaro oggi, è così. I soldi fanno soldi, voglio dire, è il motto delle banche ed è il motto che non piaceva a Bertolt Brecht da sempre, insomma, che ce l'aveva per l'appunto con una cosa che considerava scandalosa, un'idea che dai soldi nascessero soldi, e non solo Bertolt Brecht, per la verità. E quindi questo è un mantra economico antico che si declina però appunto adesso con altre modalità, in altre forme, e che non riguarda più le banche, ma riguarda appunto la possibilità, utilizzando semplicemente se stessi come marchio, di fare denari. E questo, voglio dire, non ci sono solo i reali, ci sono ampie schiere di influencer più o meno titolati che campano di quello. Sentiamolo un influencer. La Smorfia è un podcast che è in sé una burla, ma una burla serissima. È un modo per raccontare, allora, l'economia. Ovviamente. Sì, grazie dell'influencer, ma non so, non ho i riscontri, ma insomma, ancora mi sa che la strada è in salita. Alberto, hai avuto questa idea, secondo me, gustosa. Un podcast. Io ricordo sempre che si ascolta la radio e si scaricano i podcast. Cioè, qui l'audio è importante per informarsi in qualsiasi momento della giornata, uno stira, uno va in palestra, uno corre, l'audio è sempre se poi si scarica anche il mio podcast, certo. Come nasce una canzone, mi faccio sempre, sai che mi faccio sempre, ma è giusto, questa pubblicità orribile, brava, durante la trasmissione ogni mercoledì c'è una nuova puntata sul sito e sull'app del Sole 24, dei Radio 24. Allora, ma su Sole 24 Ore, il tuo podcast, che è veramente originale, perché ti sei messo a giocare con la smorfia e con i numeri per raccontarci la realtà. Sì, esatto. È un banale espediente narrativo, evidente, per raccontare cose noiosissime come sono spesso quelle dell'economia, ahimè, che si porta appresso questa idea di scienza triste che è stata inventata nell'Ottocento e ancora ci portiamo dietro, che perché evidentemente è una cosa difficile da digerire, a volte da comprendere, a volte da spiegare. per chi ha a che fare con i numeri. E allora mi sono chiesto qual è un modo per rendere più umani questi benedetti numeri di cui ci nutriamo e dobbiamo continuare a nutrirci quotidianamente. Magari scherzarci sopra tirando, vedendo, incrociando il sacro e il profano, insomma il sacro dell'Istat e tutte delle fonti statistiche ufficiali e il profano, profanissimo, della credulità popolare legata alla smorfia, che tanto credulità non è, nel senso che comunque ha una sua saggezza antica all'interno di queste declinazioni poi dei personaggi o delle cose che vengono associate ai numeri, che a volte fa comodo per tentare di spiegare delle cose che altrimenti non sarebbero spiegabili. Naturalmente molto è irrazionale, però crea dei link e dei collegamenti che non ti aspetteresti e magari rende più umana l'economia. Però a proposito di credulità popolare, ci sono anche delle convinzioni che magari i numeri confutano, cioè ci stupisce a volte vedere i numeri come vanno. Ma insomma sì, nel senso che a me stupisce, utilizzo questo metodo, partiamo da qui, raccontiamo le retribuzioni degli italiani, raccontiamo l'idea delle classifiche, se siamo ricchi o poveri, prendi le classifiche ufficiali, l'Istat, il Censis, l'Ocse e quello che è, le guardi, vedi che siamo al decimo, settimo, quinto posto, vai a vedere cosa vuol dire il 5, il 7, il 10 nella smorfia e scopri delle cose interessanti. Adesso ovviamente non me li ricordo tutti e 90, ma insomma esce spesso il 4, che è il numero del maiale, per dire. Il maiale, okay, rappresenta, sì, la cultura napoletana, il massimo dell'irrazionalità, l'incapacità della natura di sovrintendere i propri bassi istinti, l'egoismo. Ecco, viene fuori spessissimo questa cosa, di questa idea di incapacità di governare le cose di cui ci si sta parlando. Viene fuori spesso questo maiale, ahimè, che interrompe il nostro podcast, perché poi naturalmente escono i grugniti e quello che naturalmente deve essere fatto. Esce il 5, spesso il 5 è il numero della mano, il 5 diventa un numero molto affascinante, perché la mano rimanda alla coordinazione tra le dita, un'idea cooperativa, solidale. Oppure rimanda anche all'idea che il mignolo, come diceva Padron Tony nei Malavoglia, il mignolo deve far da vito mignolo, il pollice deve far da dito pollice. Cioè, saggezza popolare, però, sai, la mano è una delle modalità con cui impariamo a conoscere il mondo da bambini. È un tema affascinante che ti serve a volte magari per declinare qualche numero che ci porta l'Italia o porta la cosa di cui stai parlando al numero 5. Però devo dire che noi che guardiamo nella nostra trasmissione il mondo attraverso quello che racconta e che mostra la rete, a volte abbiamo una percezione che però non corrisponde esattamente alla realtà, cioè i numeri servono a riportarci un po' alla realtà delle cose. No, hai detto bene percezione, giusto. C'è un problema, come la meteorologia è diventata l'economia, cioè c'è un tempo percepito, cioè il freddo e il caldo, che è una percezione personale a prescindere dai gradi effettivi, che un po' è condizionata dall'umidità, un po' è condizionata dalla propria temperatura corporea, da come stiamo quel giorno, e che quindi non è esattamente quella che la meteorologia ti accredita in quel giorno. E c'è lo stesso una economia percepita, lo studiano gli economisti nell'inflazione, per esempio c'è un'inflazione reale, un'inflazione percepita, che è quella che riguarda gli aumenti anche piccoli di prezzi, per esempio del cosiddetto carrello della spesa, quando aumenta anche dello 0,1% il latte, il pane e la pasta e tu le compri due volte al giorno, è evidente che hai una percezione di un aumento dei prezzi molto forte. Certo. C'è un classico esperimento che hanno fatto questi gli economisti comportamentali su com'è percepito il risparmio in giro, è una ricerca americana. Sostanzialmente c'è che un euro guadagnato viene percepito come metà di un euro perso. Cioè non è la stessa grandezza, se guadagni è meno di quello che perdi nel percepito. Ma poi mentalmente tu ti fai un bilancio mentale dove tu hai guadagnato un euro e ne hai persi due quando ne hai perso uno, capito? Questo è, là dentro un po' di spazio per la smorfia c'è, diciamo la verità. Certo, ma la comunicazione in rete, lo scambiarsi delle informazioni in rete, secondo te peggiora la percezione? Lo scambiarsi di informazioni in rete può condizionarla moltissimo, e non a caso, come dire, i servizi segreti studiano le modalità di disinformazione per condizionare non solo le scelte politiche ma anche le scelte degli speculatori dei mercati, che vivono del nanosecondo sulla base di input di informazioni che hai, e creando troll, creando false informazioni, perché questo poi crea un'aspettativa di percezione che poi si autoavvera, che ti fa fare dei comportamenti magari su un titolo o su un altro di un certo tipo o di un altro, a fronte di aspettative, non di realtà. l'economia è fatta moltissimo, soprattutto la finanza è fatta solo di aspettative. Quando si crea un'aspettativa di un qualcosa che sta per andare male, tu vendi. Se tu vendi e sei uno considerato autorevole nella cerchia di chi più o meno fa il tuo mestiere o vorrebbe farlo come te, scateni un'ondata di vendite che probabilmente riesce a mobilitare in pochi secondi quanto il PIL della Colombia rispetto a un listino di borsa. Che materia incandescente. È chiaro che è la materia, è fondamentale la comunicazione e la gestione dell'informazione e le reti, i social, la velocità dello scambio di informazioni in questo caso diventa strategico, è uno strumento di guerra, diciamo la verità. Accidenti, allora tra poco parliamo di una cosa molto più stupida, ma secondo me... Allora, siccome abbiamo parlato di... abbiamo toccato un po' il tema delle fake news, tra poco certo. Parliamo di fake account. Ah. Non so se tu hai contezza di questo dramma, dei fake account. Penso di poterlo percepire, ma ecco, ma che riguarda soprattutto il mondo dello spettacolo e ci faremo raccontare qualche gossip. Una pausa e poi saremo ancora con Radio Tube. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Rioli. Eccoci qua. Buon Alberto, abbiamo tirato fuori un argomento complicatissimo, Cioè finanza, fake news, percezioni, video in rete, informazioni in rete. Credo che sia non solo per i giornalisti, ma per tutti un argomento che meriterebbe approfondimenti infiniti, perché ne va delle nostre tasche, del certo. nostro presente, del nostro futuro, della nostra libertà. Non è che è una cosa altra da noi. No, assolutamente. È la cosa più importante che può accadere in questo momento. Il controllo delle informazioni. E ripeto, non a caso è la priorità delle priorità anche di tutti gli apparati di sicurezza dei paesi più o meno sviluppati, ma anche in quelli non sviluppati. È riuscire a governare le aspettative e creare... misure di, come dire, di difesa rispetto agli sciami di troll o di fake news che ti assaltano è fondamentale, perché ripeto, se poi una, l'abbiamo visto, insomma, è oggetto di indagine l'attivismo russo per disturbare le campagne elettorali è oggetto ancora di inchieste, di indagini abbondanti, ma insomma si è capito che i russi sono molto avanti con questa tecnica di disinformazione studiata e chirurgica, quindi è un tema decisivo, bisogna imparare questa nuova grammatica dei social, del tempo reale, del mondo come scatola unica. Ne farei una materia scolastica. Sicuramente è una cosa da studiare, perché il mondo è diventato il salotto di casa e ragiona sul filo del nanosecondo. Anche perché persino i migliori maneggiatori di social del mondo commettono degli errori. Allora, vi faccio sentire un audio. In realtà l'audio è molto carino, non dice assolutamente nulla. Vabbè, fa piacere farvelo sentire, ecco qua. Mi piace perché è Leone, il bimbo di Chiara Ferragni e di Fedez, che gioca con i piedi, sbattendo i piedini nell'acqua nel mare di Dubai, mi pare fossero. Quindi il video è bellissimo perché io sono una grande fan di Leone e guardo tutti i video di Leone, che adesso impara a parlare, è una cosa bellissima. Però è successo, sai che è successo una cosa... Cioè, è successo uno scandalo durante queste vacanze di Natale. No, che mi riguarda è Fedez e Ferragni. Vedi, a fare tutte queste cose serie, occuparsi di economia, di politica, solo 24 ore di finanza, ti perdi il gossip. E allora andiamo a scoprire cosa è successo collegandoci con un nostro amico. Fa attenzione, perché guarda che lui è una firma acutissima, taglientissima e anche abrasiva di Dagospia, Giuseppe Candela. Caspita. Ciao Giuseppe. Ciao. Tu sai che fai paura, vero? Perché quando uno dice Dagospia, paura, sto attento a quello che dico, perché poi tu sei quello che scopre tutto. Bene, bene, bene. Quanto mi piace chiacchierare con Giuseppe Candela. Cos'è successo durante le vacanze? Allora, una story... Ma cioè, c'era il piccolo Leone che giocava con un iPad, cioè una roba normale, tipo. Sì, è successo che in realtà la patente per i social ci vuole anche per Fedez e la Ferragni. Beh, incredibile. Nessuno, non ci posso credere. Perché nessuno indegna? Perché hanno inquadrato per sbaglio un iPad dove si leggevano delle password che erano di alcuni account, tra cui uno finto, tale Camilla 63, che si è scoperto che veniva gestito dalla mamma di Fedez. Il problema è che questo account in realtà insultava, difendeva il figlio, diciamo con toni un po' agitati, e quindi sono stati costretti, insomma, almeno la loro versione qua, di ammettere che si trattava di un, appunto, del profilo della mamma di Fedez. Allora, purtroppo siamo in radio, non potete vedere la faccia di Alberto Rioli. No, no, cioè, ma siamo esattamente nel meccanismo che dicevamo prima, per cioè, l'appunto dell'importanza di creare... Non è solo la finanza, no, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Cioè, allora, ovviamente loro per difendersi hanno detto, non è nostro... È della mamma, e io ci credo, è della mamma, e hanno detto per i nonni, figli so piezza e cora, hanno detto qualcosa del genere. Sì, però pensare di difendersi dalle tante critiche con Camilla 63 mi sembra anche un po' far giocare in difesa mio cugino contro Maradona, e quindi mi sembra una roba un po' debole, ecco. Però la verità è che a volte gli account finti sono un mondo a cui ci si rivolge, a volte magari per frustrazione, no? Cioè la volontà di rispondere in qualche modo e l'impossibilità di poterlo fare direttamente, a volte una forma di divertimento. Pensare che siano gli unici però è un errore, perché diciamocelo, anche nel nostro ambiente, quello un po' radiofonico, quello televisivo, dello spettacolo, è popolatissimo. Cioè io non possiamo svelare, se no dobbiamo parlare con gli avvocati, non so, il dirigente che ha un account finto per difendere la conduttrice amante, certo. Non so, oppure posso, c'era questo che vi dico, cioè un conduttore, diciamo, della Rai, non posso dire il nome, che insultava il suo direttore su Twitter, è un mondo bellissimo se voi ci pensate. E quindi la sensazione in realtà è che così come si cerca una maschera per potersi sfogare, poi siamo attratti dalla maschera, no? Vogliamo capire cosa c'è dietro la maschera, per esempio, non so, Liberato, per dire una cosa, ieri è partito il programma di Radio 1, mascherato. Il cantante mascherato, quindi noi vogliamo sapere cosa c'è dietro la maschera, però poi vogliamo usarla per poter fare i nostri comodi. Allora, devo dire che gestire degli account fake è molto difficile. Io ho provato solo una volta a fare un account fake perché volevo vedere le storie di uno senza farmi sgamare. Ma è andata? No, malissimo, e non l'ho più fatto perché non sono capace. Lì è come quando devi gestire le bugie, ma diciamo, no, la verità. Esatto, io dico la verità perché non so gestire le bugie. Però, Alberto, a me stupisce questa cosa che, cioè, io mi immagino gente che ha milioni di follower che non abbia né tempo né voglia né l'interesse di stare a creare Camilla 63. Invece niente, facciamo, cioè c'è anche Camilla 63. Eh beh, come dire, è il motto einaudiano del risparmio, che i milioni si fanno si parte sempre da una singola lira, siccome i nuovi milioni sono il numero dei follower. No. Io pensavo che fosse quello di zio Paperone, ma è partito da lui, che diciamo, zio Paperone diceva che il sente l'acino nel grappolo, esatto, del miliardo. Okay. Avete capito cosa, la differenza di background? No, diciamo la verità, che diciamo, più parliamo di questa cosa, più parliamo di questa cosa, più io penso quanto sia difficile diventato anche fare il nonno, perché una volta bastava regalare il cucchiaino storto al battesimo, certo, quello per la prima pappa, adesso gli devi regalare tre account come finti, esatto, come minimo. Esatto, perché devi difenderlo. Accidenti. Dai compagni di asilo che... No, mamma mia. Senti, Giuseppe, io so che non è che te lo posso proprio chiedere, ma... Cioè, come scovi tu... Allora, che magari un account finto si capisce, ma tu come fai a capire che questo è di un dirigente, di un conduttore? Cioè, che tipo di lavoro? Cioè, un lavoro di intelligence pazzesco. Ma secondo me la base è che, come diciamo prima, per Fedez e Ferragni, figuriamoci per un conduttore televisivo, cioè se perfino chi ha 18 milioni di follower poi cade su questa cosa qui, la verità è che innanzitutto si vede quando un profilo è spinto, no? Da cosa? Non si nota spesso magari da foto che non corrispondono a un volto, dalle persone che segue, dalle persone che lo seguono, e poi qualche telefonata, perché l'eccesso, cioè quando un account si muove in una sola direzione, o è un fan scatenato, o è un pazzo, o è magari un interesse in gioco in quell'eccesso di difesa. Però forse c'è, come dicevi prima, bisognerebbe studiare a scuola tutto questo. E fin quando è Camilla 63 va anche bene, però poi bisogna anche un attimo fare attenzione per i rischi che possono esserci, no? Cioè dal catfishing, di cui abbiamo parlato anche altre volte, per esempio per il caso Prati, cioè diventa un mondo nascosto che però ha margini pericolosi, perché anche, proviamo a vedere al contrario, quante persone che hanno account finto insultano Fedez tutti i giorni? Ah certo, certo. E anche questo noi non possiamo non... quindi certamente è un argomento ampio e quindi le soluzioni non sono facili, però qualcosa forse... affatto. Alberto, è un tema interessante. Sì, sorridiamo nel momento in cui c'è Camilla 63 oppure la soubrette che fa finta di essere un altro per insultare il dirigente della TV. Però comunque anche questo è un nuovo capitolo che rileva della psicologia, della sociologia, un sacco di cose. Beh sì, come sempre, diciamo, sono comportamenti per così dire devianti che quando non c'erano i social erano su piccola scala, potevi considerarli piccoli pettegolezzi, cose magari appunto circoscritte a poche persone. L'impatto social però ha portato questa cosa a diventare un elemento fondante della nuova normalità, chiamiamola così, e questo è drammatico, è difficile da interpretare, da comprendere, o meglio, bisogna imparare a comprenderlo, bisogna darsi dei nuovi codici anche, come dire, di convivenza civile, perché io credo che chi è nato digitale queste cose qui le sa digerire bene, le considera poi per quello che sono, non se ne fa troppo crucio, però non credo sia l'unica risposta possibile, perché poi queste cose inducono comportamenti, creano aspettative, creano anche, come dire, conseguenze anche nei comportamenti effettivi che possono essere importanti e anche rilevanti, quindi questa cosa effettivamente ha bisogno di maggior conoscenza, di maggior consapevolezza, direi di una nuova declinazione culturale, non dico di leggi o di discipline, perché sì, certo, ci sono, anche solo di avere più consapevolezza, farne tesoro e capirla, insomma, farla diventare un elemento della nostra realtà, purtroppo. Allora io dico sempre a Giuseppe Candela che qualche sera usciamo, qualche bicchiere di vino in più, e gliele faccio raccontare tutte. Me le tengo per me, purtroppo non ve le posso dire in radio, ma io me le faccio raccontare. Giuseppe, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Presto, un abbraccio. Ciao. Un abbraccio, tanto poi noi da Gospia lo compulsiamo in continuazione, e quello che scrive lui non capiamo mai davvero, perché lui è quello che scrive e c'è quella conduttrice, sì, sì. Io però provo a chiedere, ma non è che poi me le dice davvero, ti mette lì e dici chissà chi sono, ma non lo sai mai. Vabbè, viabilità, mi scuso per il ritardo con il collega o con la collega che ci sta per aggiornare, e poi saremo insieme per l'ultimo capitolo di RadioTube. RadioTube Social Network. Devi sapere che questa è la viabilità nella quale io so se ho traffico per tornare a casa. Ah, pare okay. Di no. Pare di no. Allora, ci ha mandato un video su, ce l'ha segnalato via Twitter un ascoltatore, il Rere, che dice: secondo me non è male neanche questo come video della settimana. Noi l'abbiamo preso al volo, ce l'abbiamo, viene da BBC News. Hello everybody, this is Afternoon Live. I've lost you. I shall make my way back to the desk. I think that's the safest thing to do. Do excuse me, I shall tell you all about our top story in just one second. Cioè, praticamente è partita la sigla. La telecamera inquadrava da un'altra parte, dice: vi ho perso. I think the safest thing to do, cioè proprio la cosa più sicura, fantastica, e con il suo passo leggiadro e con un po' di fiatone è tornata alla scrivania, al desk, a dare le notizie. Mi ha ricordato di quella volta che dovevo fare la rassegna stampa e è partita la sigla e io mi sono accorta che non mi ero portata i giornali in studio e quindi sono uscita correndo, sono rientrata correndo e avevo un fiatone guarda, lasciamo perdere. Quindi, quindi l'ho capita questa giornalista, grande empatia nei confronti della signora di BBC News, che da ampie falcate ha cercato di rincorrere la telecamera. Lo retwitto. Retwitta, che così lo vedete anche voi se andate a curiosare su Twitter, chiocciola Marta Cagnola. Allora, abbiamo un po' di video della settimana, di video molto molto molto molto condivisi. Partiamo con i The Jackal. Allora, i The Jackal hanno fatto un video, torniamo anche proprio all'inizio del nostro Radio YouTube, abbiamo parlato di The New Pope, la serie di Sky, hanno fatto un video in cui c'è una sorta di presenza di The New Pope, poi lo scopriamo insieme. Cosa succede quando una coppia decide di annunciare una maternità? Intanto succede così. Maria! Ah, già, parla con la Madonna. Shazik, Maria è mia moglie. Un giorno diventerà santo. Guardi, c'è un equivoco. Il mondo ha ricevuto il suo messaggio. Ma quale messaggio? Diventerà. No, io ho scritto diventerò papà. Errore, no? Vada, è un equivoco. Ma dove mi portate? Sua santitezza, sua eccellerrimo, sua entità. Cardinale. Cardinale, mica la volevo Signor cardinale, non capisce. Io capisco. No, signor cardinale, perché io ho scritto papà, il correttore. Capisco. No, lei non capisce. Capisco. Neanche io volevo diventare cardinale. Io avevo scritto che volevo un vestito da carnevale. Eccolo qua, il cardinale Voiel di Silvio Orlando. Però a questo punto lui ha scritto che doveva diventare papà e il correttore ha cambiato in papa. A questo punto cosa bisogna fare? I Jackal hanno spiegato. Cosa si fa a questo punto? Adesso che devo fare? Devi solo dire al mondo quello che il mondo ha bisogno di sentirsi dire. Fratelli e sorelle, tutti quanti nella vita possono sbagliare. E mica cagare. Ma la domanda che dobbiamo porci è: se hanno inventato il tasto elimina messaggio, ma perché non hanno mandato pure modifica messaggio? Ecco, devo dire che è bello. È bello, eh? Sì, devo dire che questo papa, secondo me, ha veramente colto nel segno. Se hanno inventato elimina messaggio, perché non hanno inventato modifica messaggio? David Jackal sono tra i miei youtuber preferiti. Questo video ha già un sacco di visualizzazioni. In questo momento ne ha 584.252. Quando il correttore automatico ti cambia la vita, a me l'ha cambiata più volte. Ma la cosa più divertente è che loro hanno chiesto poi nei commenti: raccontateci quando il correttore automatico vi ha cambiato la vita, cioè le figuracce che avete fatto. Però sono quasi tutte. Le leggo anche se sono un po' volgarotte. Le leggo? Vado? Ho preso due cazzoni, era calzoni. Appena arrivo a casa ti chiavo. A mia madre. Ciao, come va? Rutto bene? vabbè. Ciao, non far venire i tuoi amici a casa. Mia madre scrive che ho spacciato tutto. Era spicciato. Vabbè, a un docente dell'università sperma di non disturbare. No, vabbè, ragazzi, non lo so. No, vabbè, andatevele a vedere. Ma a me fanno ridere. Allora, 584.000 visualizzazioni per questo video di The Jackal. E invece 165.000 per ora, sempre nelle grandi tendenze italiane, di questo di Will Wush, Guglielmo Schiller, che ha chiesto ai suoi sottoscrittori i buoni propositi per il 2020. Anche qua c'è qualche piccola parolaccina, qualche piccola volgarità, ma piccola, quella del sabato pomeriggio, piccole. Vi ho chiesto quali sono i vostri buoni propositi per il 2020 su Instagram e adesso vorrei semplicemente commentarli e leggerli insieme a voi. Farmi passare sta cotta che dura da quasi un anno, mo basta, mi son rotta. Ovviamente lui non ricambia. Ti capisco perché mi è successo. Però posso veramente dare quello che secondo me è l'unico metodo ufficiale per smettere di pensare a una persona? Trovatene un altro. Essere sempre più umida. Ah, umana! Che intendevi dire? Commossa dalle lacrime. Te lo auguro. Ma è sempre quella che voleva scopare di più. Partorire a luglio. Beh, se partorisci a gennaio dell'anno prossimo sei una balena. È il tempo di gestazione di una balenottera azzurra. Quindi te lo auguro anch'io. Sarà una lei, immagino. Sarà una lei, immagino. Complimenti. Questo secondo me è la scoperta dell'anno. Tu l'hai fatto il buon proposito del 2020? Ma tornare in palestra, sai. Vabbè, questo è un grandissimo classico. Quindi buon proposito del 2020, tornare in palestra. Ok. Diciamo cose per l'umanità non me ne vengono via. Anch'io. Il mio buon proposito del 2020 è quello di avere più faccia tosta. In realtà la definisco normalmente con un'altra espressione, ma non la dirò perché abbiamo già detto abbastanza parolacce. Però questo è il mio proposito per il 2020. Allora, vorrei concludere con un video davvero singolare. Un video che arriva dall'Iraq e che mostra un gruppo di ragazzi che protestano in questo modo. Bella ciao che è arrivata in Iraq. Ma la cosa che mi ha più stupito è che tutti hanno scritto bella ciao che è arrivata in Iraq, in realtà come canto di protesta, ma grazie alla casa di carta. Questo è singolare. Vedi, è ancora una volta l'influenza dei circuiti e delle nuove modalità della comunicazione. Cioè, mentre noi adesso su Bella Ciao in Italia c'è un dibattito per cui viene tirata per la giacchetta in tutti i modi e ha perso tanto del suo significato originario per diventare tante altre cose e nessuna di queste è bella, diciamo così, perché viene proprio utilizzato in tanti modi e lo spirito originario forse era un altro. Qui viene recuperata e mi ha fatto sorridere il fatto che molti abbiano detto grazie alla casa di carta. Vedi un po'. Sono le distorsioni narrative, diciamo così, che indotte dalla diffusione di queste cose nuove, di queste formule nuove che per me sono misteriosissime. Vedi quanto ne abbiamo. Più vengo qua, più mi sento un uomo del Novecento. Quanto le abbiamo analizzate. La verità è che qua ci si fanno le domande e le risposte le troveremo, chissà, forse, ma sono ancora tutte da trovare. L'importante è affrontarli questi temi e cercare di capirne qualcosa di più settimana dopo settimana, perché l'ho detto, non è solo informazione, siamo noi, è il nostro presente, il nostro futuro, le nostre tasche. È il momento dei ringraziamenti, allora devo ringraziare tantissimo chi è stato in redazione con me: Edoardo Lavezzari al di là del vetro, ma anche Laura Faggin che mi ha dato una mano questa settimana, Gianmarco Ferronato in regia, e grazie, torna presto Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore, grazie al quale tantissimo. Ho chiesto le cose più a un uomo serissimo che viene qua e dice delle cose, vabbè. Mamma mia. Non se lo perdonerà mai. Al prossimo sabato, ciao!